Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Sette e 34 e quasi 35 minuti. Buongiorno a tutti, cari ascoltatori. Eccoci qua, inizia una nuova puntata di Si può fare. 349-238-6666 per i vostri sms, anche su WhatsApp, così cominciamo subito a sentire i vostri pareri, le vostre opinioni su quelli che sono i titoli dei giornali di oggi. Facciamo subito una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8 e poi stiamo insieme fino alle 10 con il resto del programma. Vai, iniziamo. Allora, cominciamo a dare un'occhiata ai titoli, poi leggeremo qualche articolo, titoli che sono quasi tutti i giornali dedicati alla situazione internazionale, all'intricata situazione di tensione tra la zona medio orientale dopo il lancio della cosiddetta superbomba sull'Afghanistan, il cambio di politica di Trump in Siria e adesso le tensioni forti con la Corea del Nord. Poi titoli che riguardano anche la politica interna con il reddito di inclusione varato dal governo, con lo stato d'allerta a Roma per i riti della celebrazione pasquale, col Papa coinvolto nella Via Crucis e poi altre cose, come per esempio anche le parole che hanno colpito abbastanza ieri della candidata francese Marine Le Pen contro il Papa sul tema dei migranti. Sbaglia, ha detto: sono arrabbiata, è un'ingerenza l'intervento dei migranti sul Papa, che dice che bisogna accoglierli. La carità, ha detto Marine Le Pen, deve essere individuale e non si può chiedere agli stati di farlo. Chissà se queste parole gioveranno alla sua campagna elettorale oppure no, considerando insomma la figura del Papa e quello che è la carisma, la simpatia anche che riscuote Papa Francesco, ma insomma tante. Allora, cominciamo con i titoli. Pronti alla guerra, alta tensione, Stati Uniti, Nord Corea, Repubblica. Per il Corriere, superbomba americana, Kim minaccia la guerra, Pechino in allarme, può scoppiare davvero. E ieri c'è stato un attivismo anche della Cina che ha, da un lato, cercato di invitare al dialogo e in qualche modo anche alla calma i due contendenti, dall'altro ha sospeso i voli della compagnia aerea cinese tra Pechino e Pyongyang, diciamo dando sicuramente un segnale anche alla Corea protetta normalmente, ma in questo caso di forse abbassare un po' anche la cresta, chissà. Comunque questa è la presa di distanza, il raffreddamento dei rapporti espresso in questa forma. Poi si tratterà di vedere, di capire di più. Testate calde è il titolo del manifesto, che come sempre azzecca il titolo. Dopo la superbomba sull'Afghanistan, Trump in versione guerra fondaia vola nei sondaggi e oggi l'armata americana arriva in acque nordcoreane per pressare Pyongyang, che festeggia il 105° anniversario di Kim Il-sung, forse con un test nucleare, e promette una risposta spietata. Il giornale scrive: guerra mai così vicina, ecco che cosa succederà, tensione Stati Uniti-Nord Corea, se oggi Kim lancia un missile Trump può attaccare, rischio nucleare. Se ne impippa, possiamo dire così? Uso questo termine non elegantissimo. Il Fatto Quotidiano, che continua sulla Consip, arrivano nuovi indagati, oppure la RAI, campo dall'orto se ne va, è il primo scalpo di Renzi. E dei rischi, diciamo, di guerra nel mondo non c'è notizia. Ah no, eccolo, Kabul, la superbomba di Trump, piccolino, l'aveva già sganciata Bush in Iraq. Poi Libero, titolo di prima pagina, sto leggendo i titoli principali, aiutate il soldato Trump, l'America va alla guerra. Qua c'è un endorsement in qualche modo nei confronti della politica trumpiana. Donald vuol far scordare al mondo gli 8 anni di politica estera di Obama, ha capito che l'ONU è inutile e ha individuato nell'ISIS e nella Corea i nemici dell'Occidente. Le bombe sono un messaggio a Cina e Russia per schierarsi con gli Stati Uniti e la pace. Ora l'ISIS sappiamo che è un nemico dell'Occidente, ma anche di chi vive nei paesi minacciati dall'ISIS, che vuole allargarsi con questo Stato islamico attraverso attentati e mietendo vittime ovunque nel mondo. Direi sulla Nord Corea cosa possiamo dire? Allora vediamo un po', perché si tratta di capire quali sono le minacce che arrivano dalla Nord Corea, e in effetti non mancano, perché scrive Guido Olimpio, per esempio, sul Corriere della Sera: tutto può iniziare con il 6° test nucleare della satrapia, la chiama così il regime della Corea, desiderosa di ampliare l'arsenale che ospiterebbe già 10 o 16 testate nucleari, oppure con un lancio dimostrativo di un missile, una sfida allo stop di Washington, che a quel punto dovrebbe rispondere inevitabilmente. Il regime ha ammonito gli Stati Uniti a evitare iniziative militari, non sarebbe strano se riservasse qualche colpo. Un singolo episodio innesca una reazione a catene. Allora ricordiamo alcune mosse di Pyongyang che dimostrano la volontà di agire in modo risoluto. Il 18 settembre del 1996 ha spedito un suo mini sommergibile con 26 incursori sulla costa sudcoreana, missione finita però con l'uccisione di tutti gli incursori. Poi il 2010, in marzo, la Corea del Nord ha assilurato la corvetta del Sud Chineon, e in novembre ha sparato 170 cannonate sull'isola di Yeonpyeong, 3 profili di missioni adeguate ai mezzi che ha a disposizione il leader Kim, che comanda un esercito di oltre 1 milione di individui. Tra questi 180.000 appartengono a corpi di elite, alcuni interagiscono con una flottiglia di battelli subacquei e vedette, certo una buona parte dei 80 sottomarini ormai è superata dal punto di vista tecnologico, ma potrebbe bastare per creare nuovi diversivi. Ben più pericolosa la minaccia dell'artiglieria, razzi e cannoni in grado di rovesciare tonnellate di bombe sulle zone di frontiera con la Corea, ma anche sulla stessa Seul, capitale della Corea del Sud. Il dittatore potrebbe designare un punto sul quale dare un segnale di forza, ma c'è anche chi teme che Pyongyang ricorra ai suoi vettori, ordigni a medio e lungo raggio che hanno già inquadrato, parole dei portavoce, il Giappone e le basi americane di Guam e Okinawa. Questo è, secondo l'analisi di Guido Olimpio, genere ben informato su queste questioni militari, il rischio che viene dalla Corea. La Corea che vive di cosa? Di questo. Vive di un regime che celebra il suo leader in questa maniera, perché c'è il reportage su Repubblica di Macerana Vidal Lee, che scrive da Pyongyang: siamo molto felici di avere un padre così generoso. Gli alunni del Palazzo dei Bambini, uno degli enormi centri di svago che il governo di Kim Jong-un ha fatto spuntare in tutta Pyongyang negli ultimi 2 anni, ce la mettono tutta sul palcoscenico per cantare in onore di Kim Il-sung, il fondatore della Corea del Nord. Oggi si celebra il giorno del sole, il 105° anniversario dalla sua nascita. Il regime commemorerà con grande sfarzo il giorno più importante dell'anno, spettacoli di bambini e anche un'imponente parata militare e forse un imminente test missilistico. Nel teatro del Palazzo dei Bambini un'orchestra infantile, veri e propri virtuosi in miniatura, interpreta l'inno della patria. Un gruppo di bambini con chitarre esegue il generale e i bambini, ragazzine, danzano e compongono figure impeccabili al ritmo di Impariamo per la Corea. Cioè, capite, questo è quello che si vive in Corea, un paese insomma fondamentalmente o quasi totalmente indottrinato. Il nostro maresciallo è tornato in viaggio, la canzone per la Corea, insomma tutto andando via di questo passo. E quindi capite che un paese in queste condizioni è possibile che sia spinto senza remore a dare conseguenza alle annunci che sono stati fatti ieri: siamo pronti alla guerra con gli Stati Uniti. Certo, dall'altra parte la domanda che tutti si fanno è: vale la pena con un paese così di stimolare, aizzare, scatenare, svegliare il cane che dorme? Forse il cane non dorme, però insomma Queste sono le domande che ci si fa su come sta conducendo la sua politica estera Trump, perché Trump in una settimana ha cambiato completamente la situazione, lo scenario internazionale. Sicuramente sono aumentate le paure, le tensioni, sono aumentate le bombe sganciate, però qualcuno potrebbe anche, io personalmente non sono molto persuaso, ma insomma la mia opinione vale poco, però potrebbe invece essere dell'idea che vale la pena aumentare la minaccia su questi regimi per evitare che questi regimi come la Siria di Assad o la Corea o soprattutto l'ISIS nel terreno medio orientale si allarghino ulteriormente. Federico Rampini scrive: i 59 missili sulla base di Assad, la flotta inviata in Corea del Nord insieme alla minaccia di un attacco, il summit del grande gelo tra il segretario di Stato americano Rex Tillerson e Vladimir Putin a Mosca, la madre di tutte le bombe lanciate in Afghanistan per finire con una folgorazione sulla via di Damasco. La NATO non è più obsoleta, ha proclamato Donald Trump al termine del suo primo incontro col segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg. Tutto è accaduto in poco più di una settimana. Il presidente americano così ha capovolto sistematicamente la politica estera che aveva promesso in campagna elettorale. Poi, tra le varie giravolte, un po' meno clamorosa ma significativa, è l'aggiustamento sull'Unione Europea. Ha smesso di prevedere che altri stati europei seguiranno l'esempio di Brexit, cioè della fuoriuscita della Gran Bretagna. A 5 giorni dall'arrivo di Paolo Gentiloni a Washington e a poco più di un mese dai vertici della NATO a Bruxelles e del G7 a Taormina, ricordiamocelo questo, le capitali europee tirano sospiri di sollievo per la parte di cambiamento di politica di Trump sull'Europa. Il resto sono le giravolte appunto elencate in questo articolo da Rampini per quanto riguarda la conduzione della politica estera americana di Trump negli ultimi 7 giorni. Ci fermiamo per il traffico. 349-238-6666, torniamo tra un attimo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH vi presenta Eccoci qua, cari ascoltatori, 349-238-6666, se volete commentare quello che sentite. Stiamo leggendo i giornali di oggi. In arrivo la super multa per chi non paga l'autobus. Chi non paga il biglietto del bus, stia attento. Questa è la prima pagina di Repubblica. A bordo potrebbe trovare controllori autorizzati a staccare multe più salate di quelle attuali, fino a 200 euro, lo prevede una bozza della manovra bis. E qua stiamo già arrivando sull'altro argomento, che è la manovra del governo, su cui c'è la firma del memorandum, per esempio, sul reddito di inclusione, la manovra di 2 giorni fa, non ci sono grosse notizie sui giornali di oggi. L'unico giornale che lo porta in prima pagina, Il Manifesto, scrive 8 milioni di poveri, pochi sussidi. Il titolo è da un lato sulla quello che ha rilevato l'Istat, cioè 8 milioni di poveri in Italia, 4 milioni e mezzo di poveri in condizioni assolute secondo l'Istat, e la mossa del governo che ha firmato questo memorandum d'intesa con l'Alleanza contro la povertà per una legge sul reddito di inclusione. Gentiloni ha parlato di 2 milioni come platea di interessati, 2 miliardi di risorse, ma bisogna stare attenti a vedere se queste risorse ci saranno effettivamente, i decreti dovranno ancora essere scritti, e vedere a chi toccherà questo reddito di inclusione. Il Sole 24 Ore però fa una prima pagina, diciamo, da un lato sulle notizie con l'accordo all'Italia, 670 milioni il taglio del costo del lavoro, il presidente designato Gubitosi, si sblocca la ricapitalizzazione, sembra che la situazione di Alitalia vada verso un miglioramento. Poi l'altro tema è per i finanziamenti alle pubbliche, dalle piccole e medie imprese, più sgravi agli enti pensione, incentivi ai manager dei fondi di investimento che si trasferiscono in Italia. Però poi il commento è sulla produttività del sistema economico, del sistema Italia, e anche sulla necessità di abbassare da un lato il costo del lavoro, dall'altro di alzare gli investimenti. È da un po' che il Sole, firmato da Guido Gentili, punta su questa argomentazione, e Cioè, in sostanza la questione è che gli investimenti pubblici sono fermi e finché non ripartono, anzi sono in netto calo, in un momento del genere è difficile immaginare una ripresa dell'Italia, così come è accaduto in altri paesi. Scrive Alberto Orioli, gli ottimisti della volontà leggono il calo della produttività, meno 1,2% nel 2016, come l'altra faccia dell'aumento di occupazione legato in parte agli effetti del Jobs Act. In sostanza la tesi è questa: si fanno le stesse cose con più persone, ma questo calo della produttività spinge comunque a valutare, diciamo, proprio scrive Orioli, il tasso di riformismo di ogni politica messa in atto. E per l'Italia l'esito dell'autoanalisi, scrive Orioli, non può che indurre a recuperare in fretta il tempo e le risorse perse finora. Un esempio per tutti: gli investimenti della pubblica amministrazione sono calati nel 2016 del 4,5%, in generale la spesa in conto capitale è tracollata a meno 16%. Cioè, molto semplice, lo Stato non sta più investendo, non sta a spendere le proprie risorse, non si sa in altre maniere, ma non investendo come potrebbe fare sul territorio, nelle infrastrutture, eccetera eccetera, e questo contribuisce a tenere ferme le cose. E le cose non cambiano molto nei documenti di programmazione economica appena presentati dal governo Gentiloni, dove gli investimenti sono lì fermi. Allora, questo sul Sole 24 Ore di oggi. Invece, voglio leggervi altre notizie che, per esempio, intanto è un grande paese, il Canada. Il Canada, in prima pagina oggi sulla Stampa, c'è scritto marijuana libera dal 2018. La crociata di Trudeau per rendere legale l'uso ricreativo. Attenzione, non l'uso terapeutico come si sta discutendo in Italia, ma l'uso ricreativo. Se tutto va come spera il premier Trudeau, il Canada diventerà il più grande paese occidentale a consentire il possesso e l'uso della marijuana a scopo ricreativo. Il primo ministro dello Stato nordamericano ha infatti presentato una proposta di legge che consente ai cittadini adulti di possedere 30 grammi di erba e consente anche di coltivarne fino a 4 piante in casa. La norma riguarda i maggiorenni, ma con un margine di tolleranza secondo cui anche chi ha meno di 18 anni, trovato in possesso di marijuana in modiche quantità, non verrà incriminato. Chi però viene colto a vendere la sostanza, la marijuana, ai minori, attenzione, potrebbe essere condannato a 14 anni di reclusione. Quindi coltivatevela, fumatela, però non commettete reati come spacciarla, o come naturalmente anche mettersi al volante in stato di in qualche modo può aver assunto questi stupefacenti, perché si incorre in reati gravi. Ma insomma, questa è la scelta del Canada, che fa discutere, no, in qualche modo. C'è poi la questione dell'età, interessante, perché avevano discusso al loro interno il governo con consulenti sul fatto di fissare il limite a 21 anni più in alto, perché si considera che non sia ancora compiuta la formazione proprio del cervello umano, che si forma fino a 25 anni. Però il premier Trudeau temeva che porre un limite di età troppo alto avrebbe continuato a mantenere in essere il mercato illegale e quindi a rendere iniqua proprio la battaglia contro i fuori legge, perché questa è una battaglia anche per far uscire l'uso che comunque c'è della marijuana dai confini dell'illegalità. Chiudo a un minuto con questa segnalazione sulla prima di Repubblica: aiuta il tuo popolo, boicotta i negozi stranieri, sostieni le attività commerciali italiane del tuo quartiere. Azione frontale è il cartello che è sbucato davanti a alcuni negozi a Tor Bella Monaca a Roma, gestiti da stranieri. È una minaccia, un incentivo a rivolgersi ai negozi degli italiani, dice il fondatore di Azione Frontale a Roma, uno dei leader, Ernesto Moroni, che però dice: non siamo razzisti. E vabbè, la domanda che io vorrei fare a questo signor Moroni è: ma sono più italiani stranieri che vivono in Italia magari da 20 anni, che ci sono, oppure degli italiani con la pelle bianchissima e che parlano italiano, nati in Italia, che però magari non pagano le tasse, non fanno lo scontrino nel loro negozio? Chi è più italiano, loro o quegli altri? Ci fermiamo, GR, torniamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino, trentodoc.com. si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno a tutti, 8:18 minuti, ciao da Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. E allora, Carlo, Milano Monterosa. C'è il sole, in attesa della Pasqua è venuto fuori il sole. Butta bene, anche per le gite, quelle sono di lunedì di Pasquetta, ma non importa, le gite fuori porta, perché sappiamo che c'è un sacco di gente che non va da nessuna parte. Tutte le cifre, le statistiche, i telegiornali dicono 10 milioni, 11 milioni, 12 milioni di italiani che se ne andranno in giro. Va bene, ma a tutti quegli altri. Anche perché le statistiche, come ricordano negli ultimi giorni, anche la povertà, ci sono milioni di persone italiane che invece vivono sotto la soglia di povertà, sono dati di ieri. E allora, cari ascoltatori, noi vi chiediamo un sussulto di orgoglio campanilista, di orgoglio proloco, chiamateci, è il vostro momento. Fate lo spot in 20 secondi della vostra città, del vostro paese, delle località dove vi trovate, per invogliare le persone a venire lì. Ma muoversi. Vale anche il pranzo di Pasqua dei vostri parenti, cioè per fare un bello spot sul pranzo di Pasqua dei vostri parenti. Purché siano attività alternative, che non siano le grandi mete, perché è facile dire venite tutti a Parigi. A Parigi. Questo lo sappiamo tutti. Dovete trovarci, scoprirci delle chicche, delle cose un po' fuori dai circuiti interessanti. Però è anche il modo in cui si fanno gli spot. Quindi se avete anche un modo bellissimo per pubblicizzare, un modo diverso per pubblicizzare un posto noto, accettiamo anche quello. E vi aspettiamo all'800 24 0024. Come sempre, chi ci convincerà di più a giudizio insindacabile nostro vince anche oggi un libro. Mettiamo a disposizione dalla nostra biblioteca un titolo e poi cercheremo anche di abbinarlo al tema della puntata, e quindi ci sarà una sorpresa anche da questo punto di vista. 800 24 0024. Non facciamo sommario perché noi siamo contrari al sommario. Sì, Mario è morto. Bravo, esatto. E risorgerà domani. Forse chissà quando. Però vi dico che tra poco parliamo di Torino. Sì, questo possiamo dirlo. Torino, vai. Ognuno dovrebbe amare la propria città, non so, come la propria donna, no? Con i suoi pregi, con i suoi difetti, anche se uno la conosce bene. Sono di Torino. È una città antica, gentile, un po' romantica, come una damina del Settecento. È una piccola, gentile città che al mio cuore sta sempre vicino. Questa sera la mia fantasia ha un po' di nostalgia della vecchia Turin. Oh, che bella la Piazza Castel con la luna che in cielo. No, ragazzi, ma vi rendete conto cosa siamo andati a recuperare? Macario! Grandissimo. Vabbè, Macario. Poi nel giorno in cui si festeggiano i 50 anni della scomparsa di Totò, Noi giustamente ci occupiamo di Erminio Macario. Non possiamo mica stare lì allineati con tutti gli altri. Grandissimo Totò, però dobbiamo parlare di Torino. Ricordare, stanotte abbiamo visto tutti, c'erano Totò, maratone, Totò, straordinarie. Invece mi sembra un link perfetto. Assessore all'ambiente di Torino, Stefania Giannuzzi, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno. Ha gradito? Sì, molto. Senta, ma come stiamo messi con amore per la propria città? I torinesi, secondo lei, hanno cura della propria città? Perché poi arriviamo alla notizia che riguarda il suo assessorato, Torino e l'amore per la propria città. Sicuramente sì, perché ci arrivano molte richieste da parte di cittadini, soprattutto di fare azioni contro il degrado della città, quindi sicuramente c'è una voglia di collaborare e ci sono anche diversi modi in cui i cittadini possono volontariamente occuparsi dello spazio pubblico, quindi diciamo che i torinesi sono molto molto attivi in questo senso. La notizia riguarda la questione dei rifiuti, raccolta differenziata, sì, porta a porta in 3 quartieri entro quest'anno, multe a chi non fa la raccolta differenziata correttamente. Questo vuol dire anche amare la propria città, non sporcarla, non lasciare rifiuti per strada e fare la raccolta differenziata correttamente. Io per esempio, quando ho sentito questa notizia, cioè di queste multe che volete fare a chi non la fa correttamente, sei andato a controllare subito la tua spazzatura, hai detto porca porca miseria, ho messo la scatola del tonno. Bravo, ma quello lo faccio sempre, perché quando vado a portare l'immondizia io e vedo il sacchetto sbagliato nel cesto o della plastica o in quello dei cartoni o anche in quello dell'organico, perché c'è gente che sbaglia e mette cose che non c'entrano nell'organico, mi arrabbio sempre, no? E quindi sono contento di questo. Come funziona però questa previsione di multa per chi sbaglia la raccolta differenziata, assessore? Ma allora, una piccola premessa, perché Torino è stata una città molto virtuosa sulla raccolta differenziata negli anni 90, e dopodiché ci siamo fermati e attualmente siamo un 43%. E cos'è successo? Come mai negli anni 90? Poi cos'è successo? È successo che probabilmente la politica sulla raccolta differenziata non era tra le priorità delle amministrazioni precedenti. Otto. Però noi dobbiamo anche... dover attuare gli obiettivi sia della Commissione Europea che della Regione Piemonte, quindi dobbiamo arrivare al 65% di raccolta differenziata entro il 2020. Sì, questo sì. È il motivo per cui ci siamo messi subito al lavoro, appunto estendendo la raccolta porta a porta in tre quartieri, quindi 70.000 persone a Torino avranno la raccolta differenziata a partire da settembre. Con tutti i vantaggi e gli svantaggi, perché esatto. Poi è anche un po' una rogna, no? Nel senso che è un impegno, bisogna lasciare... come funziona in una città grande come Torino la raccolta porta a porta? Come la state organizzando? Come pensate di organizzarla? Ma appunto, adesso Torino è divisa con due modalità di raccolta. C'è la parte esterna, ha una raccolta domiciliare con i 5 bidoncini, con le 5 frazioni all'interno o dei cortili, o insomma all'interno dei condomini. Quindi bisogna lasciare nel cortile, sì, del condominio, esatto. Se uno ce l'ha, se no, se uno non ha il cortile del condominio, che fa? La lascia per strada? In casa, esatto. Sì, poi ci sono, in alcune zone ci sono anche le isole ecologiche, insomma ci sono delle modalità diverse, però appunto la maggior parte della città non è servita dal porta a porta e quindi ci sono ancora i cassonetti stradali. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto anche al CONAI e ad Amiant, insomma, di impegnarsi con un protocollo d'intesa in modo tale da aumentare non solo la quantità di rifiuti che poi andranno poi a riciclo, ma anche la qualità, perché facendo un sistema di porta a porta a 5 frazioni si aumenta anche la qualità dei rifiuti e quindi possiamo, come dire, riciclare meglio. Certo, perché lo spieghiamo agli ascoltatori, perché nei cassonetti, essendo anche giganteschi, basta che qualcuno, esatto, butta dentro qualcosa di sbagliato. Addio, che un po' tutto quel cassonetto gigantesco è perlomeno inficiato, viene un po' vanificato, perché noi a Milano siamo abbastanza avvantaggiati dal fatto di avere, sì, le portinerie, e quindi, esatto, molto della raccolta differenziata poi casca un po' sulle spalle dei custodi, dei custodi, sì, che si occupano anche un po' di controllare, cioè, dove non c'è questa tradizione non è così semplice. Questo... Io ho avuto la possibilità, sì, appunto, di visitare AMSA e quindi di visitare com'è il sistema di raccolta differenziata a Milano. Appunto, loro mi hanno spiegato, ovviamente anche loro fanno le multe e hanno soprattutto un sistema di controllo GPS di tutti i mezzi dell'AMSA, in modo tale da sapere esattamente dove fermo il mezzo. E insomma c'è un sistema di controllo molto molto efficace, quindi noi... Ecco, però ci parli anche proprio di questa multa, sì, perché poi sai, il cittadino si attacca a questo, teme la multa, paura, pensa che a volte il comune con le multe voglia far cassa, voglia solo incassare, eccetera eccetera. Invece voi che tipo di multa volete fare, a chi, in quali circostanze? Ma sì, appunto, come ho detto, come sta facendo Milano, noi abbiamo degli accertatori ambientali che oltre ai vigili e abbiamo anche le GEV, che sono le guardie ecologiche volontarie, che sono le pubblici ufficiali, e quindi in situazioni in cui vediamo che nei condomini non viene fatta la raccolta differenziata, poi viene segnalato, viene notificato la multa, ma è esattamente come succede. Quindi viene fatta al condominio, non al singolo cittadino, no? No, certo. Che è uno dei grossi problemi, perché poi ci sono tutti i condomini che dicono litigano. Ma sono stato io che ho messo la pizzetta dentro nella carta. No, comunque adesso diciamo, punteremo con una campagna di sensibilizzazione molto molto molto efficace, in modo tale, come dire, da abituare le persone che ancora non sono servite da porta a porta a fare una raccolta differenziata corretta. Quindi prima faremo tutta un'azione di sensibilizzazione prima di arrivare... Poi dei bei cartelli appesi in tutti i condomini dove si spiega chiaramente quali, esatto, sono i vari cassonetti per tutte le cose. Senta, però noi abbiamo imparato anche dal nostro amico, compagno di strada Rossano Ercolini, fondatore del Movimento Zero Rifiuti in Italia, credo che lo conoscerà, che va bene il disincentivo, va bene la multa bisogna anche mettere un po' di paura al cittadino, però poi bisogna anche incentivarlo, sì. No? La questione della tariffa in sì. base a quanto inquini, lui dice sempre bisognerebbe far pagare la tassa sui rifiuti, chi più produce rifiuti più indifferenziati, più paga, chi meno ne produce meno paga. Su questo a Torino come andate? Sì, ci sono già degli incentivi per esercizi commerciali che ad esempio non utilizzano dei materiali usa e getta, ma utilizzano dei materiali ad esempio biodegradabili, delle tovaglie di stoffa, sì, oppure delle tovaglie di stoffa che quindi si possono utilizzare più volte. Certo. Ci sono già dei meccanismi di premialità. Ovviamente una tariffazione puntuale, quindi far pagare il singolo cittadino virtuoso meno, è possibile quando sarà esteso il porta a porta in tutta la città, perché ovviamente un cittadino che non è servito dal porta a porta non può pagare, sarebbe svantaggiato, certo, esattamente, in partenza. Quindi il nostro obiettivo è di arrivare a fine mandato a coprire tutta la città con il porta a porta e poi introdurre la tariffazione puntuale, però stiamo studiando anche meccanismi premiali. Noi vorremmo anche organizzare una sorta di olimpiadi dei rifiuti tra quartieri, in modo tale da mettere in una sana competizione cittadini. In gara un quartiere con l'altro. Sì. Per poi appunto mettere in palio dei premi. Quindi questo è uno dei primi passi che faremo nell'immediato. E stiamo anche puntando molto sui mercati, perché ovviamente i cittadini sono molto attenti anche a quello che succede al di fuori delle loro case e quindi abbiamo dei problemi molto grossi su ad esempio Porta Palazzo, che è il mercato all'aperto più grande d'Europa, e abbiamo anche lì sulla scia di Milano attuato una sperimentazione che ci sta dando dei grossi risultati, quindi abbiamo sì. aumentato la percentuale di organico, perché abbiamo agito solo sui banchi che vendono frutta e verdura, e siamo riusciti anche a recuperare una quantità di cibo ancora commestibile che prima finiva invece nell'indifferenziato, a favore invece delle associazioni che poi si occupano di persone. Bene, anche questo è molto molto molto importante. Io sì. intanto invito gli ascoltatori all'800 24 00 24 a dirci che cosa ne pensate, se la ricetta prevista dal Comune di Torino, che ci starà spiegando l'assessore all'ambiente Stefania Giannuzzi, vi ha convinto. Insomma, questo tema dei rifiuti lo abbiamo imparato, non dobbiamo più neanche chiamare rifiuti, ma sono vere e proprie, il cassonetto sì. è pieno di materie prime, pieno di ricchezze, sì. se impariamo a sfruttarle, addirittura questo che è un problema diventa una grande opportunità. Quindi, cari ascoltatori, se vi ha convinto la ricetta di Torino oppure no, chiamateci 800 24 00 24. Assessore, però c'è anche un'altra cosa che le volevamo chiedere, che riguarda sì. un altro tema, che è quello della movida, perché voi state fate parte di una sperimentazione, un progetto europeo, un progetto pilota sì. con altre città europee, interessante e anche un po' inquietante, però, perché si tratta di monitorare come funziona un po' il livello di decibel, mettendo però un braccialetto acustico, mettendo un braccialetto però a determinati individui. Ma allora, sì, è un progetto europeo appunto cui Torino fa parte, e l'obiettivo è quello di gestire meglio gli eventi che vengono organizzati in città dal punto di vista del contrasto del rumore e anche per quanto riguarda la sicurezza, quindi questo è l'obiettivo principale. Mm-hmm. E lo faremo attraverso appunto dei sistemi innovativi che riguardano la sensoristica, quindi anche fonometri fissi, ovviamente, e abbiamo deciso di sperimentare su due zone della città questa tecnologia. Una è il quartiere di San Salvario, che è il quartiere vicino alla stazione principale di Torino, dove maggiormente i cittadini soffrono di inquinamento acustico. I nuovi murazzi, come si suol dire, giusto? Esattamente. E, abbiamo una carenza di dati, perché sì. Attraverso questa sensoristica noi vorremmo capire com'è il flusso delle persone, e attraverso questi dati poi noi dovremo fare delle scelte anche che riguardano la viabilità della zona. Ma come funziona questa app? Nel senso che noi abbiamo letto che c'è un progetto europeo che tocca sei città, una di queste sei città, l'unica italiana, è Torino, ci sembra, certo. Ne siamo molto felici, ed è un'app per monitorare le emissioni sonore dei grandi eventi, oppure all'esterno dei locali, quindi perché le persone si lamentano e dicono c'è troppo rumore qua sotto. Ma come funziona questa app? Una specie di orecchio acceso... sia appunto la sensoristica mobile che quella fissa dovrebbe poi allertare la persona che ha il sensore del troppo rumore e quindi diciamo sensibilizzarlo nel non diciamo aumentare il livello di rumore. Quindi dovrebbe servire a una duplice funzione. Una si può usare anche per sapere qual è il livello di alcol nel corpo. E quindi, Ma scusi, esatto. Ma come li scegliete? Ma nel proprio o in quello di chi si incontra? No, nel proprio. Ovviamente si soffia all'interno del sensore. E si aderisce su base volontaria? Volontaria, ovviamente. Quindi c'è tutto un... ci sarà tutto un dialogo con soggetti... che intermediari che sono magari le case dei quartieri, sì. Le agenzie di sviluppo. Ma le faccio una domanda stupida. Sì. Che cosa vieta a una vecchietta che è stufa di sentire il rumore di urlare dentro questa app e poi dire che c'è moltissimo rumore in zona? Ma ovviamente i dati sono presi, come dire, non solo dal singolo... Ah, giusto. Deve urlare dentro in tutte le app, quindi in effetti c'ha ragione, in questo è assolutamente ragione. La vecchietta dovrebbe sgolarsi in questo caso. Una sorta di ricerca attiva con giovani ragazzi che con questi braccialetti vi aiuteranno a capire come funziona la movida, dove c'è troppo rumore, dove ce n'è poco. Esatto. Dove ce n'è poco, magari chiamateci, veniamo noi a fare un po' di casino. Assessore, grazie intanto per essere stata con noi, Stefania Giannuzzi, era una battuta, 800 24 00 24, soprattutto sul tema dei rifiuti, multe a chi non fa correttamente la raccolta differenziata, accade già in altre città, questa è la previsione di Torino, se vi ha convinto chiamateci e poi chiamateci anche per fare il vostro appello per venire a visitare nei giorni di Pasqua e Pasquetta la vostra città, un motivo. O la vostra meta preferita. Un particolare, il paese, la vostra meta preferita. Esatto, dimenticata, avete 20 secondi per fare lo spot del vostro luogo del cuore. Non siamo il Fai, siamo Radio 24, ma fa lo stesso. Siamo qua. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Una buona giornata da Edoardo Ferrara agli ascoltatori di Radio 24. Nelle prossime ore progressivo peggioramento al nord per la discesa di una saccatura dal nord Europa. Avremo così nuvolosità irregolare con qualche pioggia temporale sparso, dapprima soprattutto sulle Alpi orientali, ma in estensione a gran parte del nord-est e l'Emilia-Romagna entro sera. Poco o nulla invece sul nord-ovest con fenomeni più occasionali. Attenzione perché sempre in serata peggiora anche tra Alta Toscana, Umbria e Marche con rovesci temporali sparsi. Situazione tranquilla invece da Lazio Abruzzo verso sud e Sicilia, con cieli generalmente sereni o più parzialmente nuvolosi. Bel tempo prevalente infine anche sulla Sardegna. Uno sguardo alle temperature che sono previste in calo nei valori massimi al nord, su valori ancora comunque relativamente miti. Poche variazioni invece al centro-sud, con massime diffusamente superiori ai 20-22 gradi. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale sull'app gratuita di Trebi Meteo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, 8:39 minuti, abbiamo Agnese che ci chiama da Firenze. Buongiorno Agnese. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Su cosa volevi intervenire, Agnese? Allora, io volevo raccontarvi di un posto bellissimo che è subito fuori Firenze, che ho scoperto. Pensavamo in Francia, così a orecchio. Sì, ma sono a Firenze da un po'. E avevo sentito da questo cammino che si chiama la Via delle Dei, che collega Bologna a Firenze, penso che molto antico del Medioevo. Dunque, sono uscita da Firenze e ci ho passato la notte fuori perché ho scoperto il Mugello. Già la salita per andare verso la zona di Pratolino, Svalia, a questo periodo è un'esplosione di glicine incredibile. Ah, meraviglioso. La Via degli Dei. Scusa, da dove si parte, sì. Agnese? Cioè, si parte da Firenze, sì. Fino a Bologna. Si passa tramite Fiesole quando si esce da Firenze. Abbiamo trovato ad alloggiare un posto bellissimo, che si può dire i nomi? Certo. Sì, che si chiama Villa Ortalia, è un posto allucinante. Addirittura. Appartamenti di campagna, super tenuti. Allucinante nel senso positivo del termine, che fanno dei decotti di glicine che ti fanno delle visioni. Il rapporto qualità-prezzo era incredibile, è un posto veramente unico, nascosto, una vista, si vedeva il Duomo di Firenze, olive, vigne super ben tenute. E lì si cammina, poi si comincia a camminare volendo, uno di lì arriva fino a Bologna. A Bologna, e ci sono tante tappe previste, so che c'è un prologo. Anche perché ce ne vuole arrivare camminando a Bologna. Sì, ma è un... ma cos'è? Un sentiero, Agnese? È un sentiero di pellegrini, credo. È una sorta di cammino di Santiago, però tra Firenze e Bologna. Nel Mugello. La via degli dèi, benissimo. Sì, questa è una cosa bellissima. Questa è bella. Complimenti, la ringraziamo molto. Anche lo spot è bellissimo. Sì. E ha scelto questo accento francofono che abbiamo apprezzato moltissimo. Forse non lo ha scelto, è il suo, però se lo avesse scelto sarebbe stata una scelta eccezionale. Molto bello. Per colpire l'immaginazione. Grazie a lei. Questa, la via degli dèi, allucinante l'ha definita Agnese. Molto bene. Andiamo, che si può fare anche nell'altro senso, peraltro. Sì, certo. Immagino che si possa anche partire da Bologna e andare verso Firenze. Penso proprio di sì. Sara da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Ma grazie. Ma prego, ma su cosa volevi intervenire, Sara? Io volevo segnalarvi un piccolo paesino tra Pavia e Milano, sì, che si chiama Sant'Alessio Convialone. Convialone, perché c'è un vialone in mezzo? C'è una cascina che si chiama Vialone, collegata al paese. Perfetto. La caratteristica di questo paese è di svilupparsi intorno a un piccolo castelletto, attorno al quale c'è un parco ornitologico, un parco faunistico ornitologico, da cui hanno preso vita nidi di cicogne, e sui tetti del paese, della torre, del campanile, su un silos di una cascina, abbiamo nidi di cicogne, e ce ne sono 10 in tutto il paese, 8-10 quest'anno. Quindi chi volesse ammirare questo particolare volatile e i suoi nidi, li trova tutti qui a Sant'Alessio Convialone. Sant'Alessio Convialone. Ma che bello! Particolarissimo. Intorno a questo piccolo castello. E secondo te oggi a Pasqua, a Pasquetta, ci sarà la folla, oppure non lo conosce nessuno questo posto? Io non lo conoscevo, per esempio. Non è molto conosciuto. Il giorno di Pasquetta è abbastanza frequentato. Il giorno di Pasqua, il martedì, è sicuramente godibile. Ci può davvero passare una bella giornata. Meno magari che a San Gimignano, la butto lì. È un po' meno conosciuto San Gimignano. Quindi va benissimo, va benissimo. Sì. Perfetto. Quindi anche in bicicletta si può arrivare da Milano e poi proseguire verso la collina. Ci si può fare una bella pausa, una piacevole pausa. Fantastico, Sara. Grazie a lei, accogliamo lo spot di Sant'Alessio con Vialone, anche perché poi Alessio mi sembra anche, diciamo, c'era un po' anche di desiderio, siccome una captazio, esatto, qua c'era un po' una captazio, una lisciatina nei confronti di uno dei due conduttori. Vabbè, comunque io personalmente ho già imparato due cose: la via degli dèi, si vede che sono molto ignorante, e Sant'Alessio con Vialone, non conosciamo nessuno dei due. Continuate così, ascoltatori, momento proloco, fateci scoprire le meraviglie delle vostre città o posti dove siete stati, perché oggi è il momento per dare un consiglio dell'ultima ora, dell'ultimo secondo, altro che last minute. 800 24 00 24 per le vostre Pasqua e Pasquetta. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Era un giorno come tanti e nessuno si aspettava, tra la gioia dei passanti e il destino che tramava, una vita normale come in una cartolina, i negozi, gente in strada, i vecchi e la panchina. Basta un attimo e giù tutto, la tua storia, la tua vita, i paesi tinti a lutto, la tua casa demolita. A vagare tra macerie come un'anima dannata, a scavare a mani nude, a cercar quella salvata. Le grida di dolore delle comunità, i volti senza nome che chiedono pietà. Rimane appesa un trave, una sola parete, un tavolo e uno specchio per speranze. Ore inquiete. Istentales e Roberto Vecchioni in questa A Mani Nude, una canzone che è stata composta per le zone colpite dal terremoto. Ed ecco noi il cantante, il leader degli Istentales, Gigi Sanna. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Nella vita cantante, ma anche pastore di pecore, è così? Sto rientrando da Mungere, infatti, adesso. L'abbiamo beccata in un momento perfetto. Beh, esatto. Ma quale delle due attività è quella principale, la vera attività? Beh, la principale è comunque il pastore, perché comunque è quello che mi dà da vivere, perché in Sardegna vivere di musica è impossibile, quindi dobbiamo fare un primo lavoro, poi gli hobby, tra virgolette, quindi quello che è la musica per noi. Beh, un bel hobby, perché comunque con questo gruppo, gli Istentales, siete arrivati a cantare una canzone anche insieme a Vecchioni, ma non solo, perché è molto tempo che cosa vuol dire Istentales? Perché questo nome? Allora, Istentales è una stella della costellazione di Orione, la prima che nasce la sera e l'ultima che vede il mattino, da istentare, tardare. E quindi, insomma, era una sorta di orologio appeso al cielo che gli antichi pastori si basavano per quando seminare, per quando dovevano raccogliere il grano, per quando dovevano figliare le mucche. Insomma, era tutto un, visto che prima non c'erano altri punti di riferimento, le stelle erano i nostri punti di riferimento. Che meraviglia, siamo qua così, attentissimi ad ascoltare ad ascoltare la storia della prima stella. Gigi molto Sanna. Bello, prima e l'ultima stella. Voi amate le tradizioni, per esempio anche quella di Saparadura. Ce lo vuoi raccontare? Per noi è un rituale antico, è una cosa che ci hanno lasciato i nostri antenati dalla notte dei tempi, quindi era un discorso di aggregazione sociale delle piccole comunità, come appunto le comunità sarde che vivevano in piccole fazioni, dove appunto per darsi una mano l'un con l'altro, quando succedeva un danno di qualsiasi genere, sia perché passava il fuoco e bruciava le pecore, oppure perché gliele portava via l'alluvione, oppure addirittura perché gliele ammazzavano, gliele rubavano, o anche perché usciva dal carcere, ogni pastore si metteva appunto la mano sulla coscienza e dava una pecora per ricompattare il gregge, per far sì che appunto chi perdeva il gregge potesse ricominciare a lavorare. È una storia bellissima raccontata poi così. Molto bene. È una vera storia di solidarietà, un gesto antichissimo per cui appunto tutti, almeno ho letto così, che erano i pastori limitrofi intorno a questo singolo pastore, ognuno donava una pecora per ridare un piccolo gregge al chi pastore era caduto in disgrazia. E per poter ricominciare. Mi sembra la più splendida parabola della solidarietà e anche dell'INPS, se vogliamo. Sì, esatto. Ci siete voi al posto dell'INPS. Essenzialismo, però almeno la cosa importante è che sono fatti concreti, infatti quello che ci orgoglisce di quando siamo andati a Cascia. Ecco, perché la notizia è questa. Lì volevamo arrivare, che non l'abbiamo ancora detto. Questa cosa l'avete fatta per i pastori, per gli allevatori delle zone del centro Italia, in Umbria in questo caso, che sono stati colpiti dal terremoto, hanno avuto molte perdite, molti danni, e avete fatto una specie di transumanza, mi viene ad usare questa espressione che probabilmente è sbagliata, non c'entra nulla, però avete proprio portato mille pecore in viaggio fino in Umbria. Sempre. Sempre per sottolineare che le tradizioni non finiscono e hanno un valore se vengono portate avanti. Prego. No, ma assolutamente, varcano il mare, anzi, perché quando si ha bisogno bisogna dare una mano anche se uno è dall'altra parte del mondo, in ogni caso. Quindi c'è questo gesto di solidarietà dove circa 1000 pastori sardi hanno donato una pecora a ognuno per far sì che veramente chi ha subito purtroppo questo grave sisma del terremoto potesse ricominciare a vivere. La cosa bella è che durante il viaggio di queste 1000 pecore, scortate appunto da noi Istentales, dalla Protezione Civile, la Procivi di Sardegna, la Coldiretti e tanti pastori sardi, hanno figliato 3 pecore in nave, quindi hanno fatto 3 agnellini piccoli, tra cui uno piccolissimo che è nata femminuccia proprio quando abbiamo aperto la pedana per scaricare le pecore. E quindi, essendo femminuccia, l'abbiamo chiamata Rita, in onore di Santa Rita di Cascia. Certo. È bellissimo, quindi siete partiti con 1000 pecore e siete arrivati con 1003. Esatto, 1004 allo sbarco proprio. Perfetto. Ma il viaggio è stato molto lungo, oppure le pecore sono rapide? Erano molto incinte. Assolutamente... È nata, non è che è stata concepita anche durante il viaggio, non esageriamo. No. Pensavamo in una specie di miracolo. Ma hanno viaggiato benissimo nel rigore del rispetto animale, logicamente. Sì. Erano afforaggiate, affienate, avevano acqua, soddisfazione. Hanno viaggiato benissimo, ripeto, erano pecore in salute, proprio perché le abbiamo tenute 20 giorni. In una zona dell'Agris, che è un'azienda della regione, che appunto tutti i veterinari gratuitamente hanno veramente corrisposto. Quindi non soltanto i pastori, ma tutto quello che circondava il mondo della pecora è stato veramente coinvolto, tra cui anche 500 quintali di mangime che abbiamo portato su per i pastori, quindi non soltanto le pecore ma anche il mangime. E ad accogliervi chi avete trovato? Gli allevatori, i pastori dell'Umbria, che con gli occhi sgranati immagino, perché magari non pensavano veramente di vedere arrivare 1000 pecore così, pam. La prima parola che mi ha detto Antonio Columbo, un pastore di appunto lì di Cascia, mi ha detto: voi avete promesso e avete mantenuto, siete venuti subito con il vostro frutto, quello che ci avete portato. Cioè, molti politici sono venuti qua, hanno promesso e non hanno mai fatto niente. E poi sono scappati. Esatto, erano soltanto delle esibizioni locali. Mi sembra una straordinaria risposta questa, perché in realtà appunto... La gente che lo vive, sapete com'è, parla concretamente e realmente, quindi questo è il senso delle cose. Beh, comunque anche voi avete dovuto organizzarvi, non è semplice radunare 1000 pecore donate da 1000 pastori in tutta la Sardegna, prendere e portarle in Umbria. Complimenti Gigi, perché avete fatto una bellissima cosa. Come si dice si può fare in sardo? Come si dice si può fare? Si può fare, il titolo della trasmissione in sardo. Si può de fucker. Si può de fucker. Vabbè. Si può de fucker. No, stavamo zitti perché poi lo usiamo per la sigla, il tuo si può fare detto in sardo. Ah, ecco. Anzi, direi che in automatico stai firmando la liberatoria durante questa intervista. Non esatto, problema, per essere utilizzato nel promo. Senti, Gigi, ma... Sì. Per lo sardo è importante la stretta di mano, non un foglio di carta che firma comunque. Perfetto, perfetto. E vale la stretta di mano, diciamo, vocale e solo radiofonica, giusto? Anche virtuale, va benissimo. Perfetto, certo. Perfetto, allora ce la siamo data. Senti, in questi giorni si è parlato tanto di agnelli, c'è chi si è fatto fotografare con un agnello in braccio mentre gli dava un biberon di latte, Silvio Berlusconi, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, addirittura ha adottato due agnellini. Che tristezza. Devo dire che un po' di tristezza, di mestizia mi è venuta anche a me, ma perché sono chiaramente degli spottoni, magari poi sono persone che anche ci credono nel bene dell'animale, ma però quella domanda è: voi allevatori, non è che non ci credete nel bene degli animali, perché voi ci vivete con le pecore, quindi chi più di voi? Il pastore io penso che sia la persona da salvaguardare oggi, che veramente se ci fosse un museo bisogna chiuderlo dentro il museo, perché è a tutela del territorio, perché difende le piante e tutto l'habitat naturale che lo circonda, difende gli animali, perché un pastore se gli manca un animale è come che gli manchi un proprio figlio, perdonate talmente l'attaccamento, perché l'animale gli dà da vivere, quindi più è trattato bene più produce e più comunque rimane in vita per tanti anni, per far sì che il connubio pastore-animale sia veramente resistente. Io questi spot che fanno veramente mi fanno vergognare a volte, perché comunque sono questa sorta di perbenisti e ben pensanti che fanno gli spot soltanto per accaparrarsi i voti per le prossime campagne elettorali. E penso che, e questo lo credo fermamente, che nella tavola della Boldrini o nel tavolo di Berlusconi a Pasqua ci siano soltanto ravanelli e lattughe, non ci credo. Ci sarà sicuramente anche la carne, però sai, per essere un uomo di facciata il problema è l'ipocrisia, sono d'accordo anch'io, perché poi se uno sinceramente si ritiene animalista o si ritiene di non voler consumare la carne, gli animali eccetera, ha tutto il diritto di farlo, anzi Veronesi ci ha insegnato che bisogna mangiarne poca, lui era vegetariano perché non fa bene mangiarne troppa, però è vero ma che magari cercare di eliminare invece chi mangia la carne è un po' esagerato. Direi che comunque lei è stato bravissimo, il suo spot è preciso, cioè sta dicendo alla Boldrini: adotti un pastore invece che degli agnellini. Ecco, se la Boldrini vuole vengo io un annetto a casa sua tranquillamente, mi adotta, mi porto le mie 400 pecore e le faccio pascolare anche lì davanti al Senato. Però per un anno mangia solo ravanelli. E pecorino, anche lei. Non esiste, non posso. Io sono carnivoro per nascita. Gigi Sanna, grazie. Un abbraccio, mille. Complimenti per l'iniziativa, la transumanza delle pecore sarde fino in Umbria a dare una mano agli allevatori colpiti dal terremoto a Cascia. 30 secondi per chiudere con Jonathan da Pisa, momento proloco. Sì, esatto, buongiorno. Buongiorno. Sto chiamando per valorizzare un attimino un posto che è il mio comune, che è Vico Pizzano, che dovrebbe conoscere abbastanza. Io lo conosco, però gli ascoltatori non lo conoscono. In 15 secondi. Siete toscani fra di voi. Esatto, è un borgo stupendo, ricostruito dal Brunelleschi, quindi c'è una firma importante che dà un prestigio ancor più a questo piccolo borgo murato, che ha un fascino incredibile. Non ci sono negozi, non c'è grandissima attività, ma è come camminare nel Medioevo. È come tornare nel passato. Vico Pisano, grazie Jonathan. Grazie. GR. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Se mi guardi tu, mi fermo un istante. Il mio pensiero poi si perde su di te, così distrattamente da non sentire il tempo che passa. E se è vero che l'amore parla, e se è vero che insegna a sognare, questa notte rimango sospesa a specchiarmi sul mare, ho imparato a volare. E se è vero che l'amore balla, sopra i tetti e sui cuori del mondo, questa notte rimango ad aspettare per vedere la luna accendersi solo per noi. Se mi tieni tu, io resto qui per sempre, lasciando scivolare tutto il resto via da noi, che non ci serve andare per stare in bilico, partire e ritornare al punto di partenza. Ogni baci mi sfiori, mi prendi e mi dici, guarda che non siamo amici, non lo siamo stati mai. Poi ti fermo le mani e ti dico, tu amami forte, ma amami adesso. E se è vero che l'amore parla, e se è vero che insegna a sognare, questa notte rimango sospesa a specchiarmi sul mare, ho imparato a volare. Sospeso di Lorenzo Fragola, perché torniamo su questo mondo ormai settimanalmente direi. Dei sospesi, piccoli e grandi gesti di solidarietà degli italiani che regalano un caffè, un giocattolo, il pane sospeso, abbiamo raccontato a Pavia la settimana scorsa, il teatro sospeso, il biglietto del teatro in Trentino, e a Roma c'è anche lui a dare una mano in questo mondo dei sospesi. Chef Rubio, buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi. Buongiorno chef. Eccolo qua, e allora l'unico chef che non a cui non interessano le tre forchette della guida Michelin, perché tu hai detto che mangi con le mani, tra l'altro, è vero? Perché? No, quelle sono le stelle, si hanno da un processo molto lungo, però sì, è vero, mangio anche con le mani perché il cibo va toccato, ci comunica qualcosa già con uno dei nostri sensi che spesso lasciamo in disparte, facciamo giudicare tutto all'occhio, al naso, e credo sia fondamentale portare avanti pure i restanti sensi, perché altrimenti potrebbero anche offendersi. È bello intanto mangiare giusto, con le mani. Però alla Casetta Rossa di Roma il tema è un altro, la questione è un altro. Il pasto sospeso che avete presentato qualche tempo fa è una cosa importante. Come funziona? È molto semplice. Con Henry De Luca, che è una persona che stimo moltissimo, che è stato veramente incredibile incontrare, abbiamo dato vita al pasto sospeso insieme ai ragazzi del Baobab e alla Casetta Rossa per dare con 5 euro un pasto a persone italiane e non che hanno problemi economici e che non arrivano a poter acquistare giornalmente neanche un pasto, in modo tale da sensibilizzare in primis il quartiere della Garbatella e poi tutti quanti speriamo che aderiscano, ma non solo per la Casetta Rossa ma in qualsiasi altro tipo di ambiente ristorativo, per fare questo gesto. Certo. Che in questi tempi non è... Dati Istat di ieri, lo ricordava prima Carlo, 4 milioni e mezzo di persone che sono in condizioni di povertà, cioè che non hanno abbastanza mezzi per comprare quello che serve per sopravvivere degnamente. Prima necessità. Il governo ha approvato ieri una misura, il reddito di inclusione, dovrebbe riguardare 2 milioni di persone, vedremo i dettagli più avanti. Intanto però è spesso davvero il cuore degli italiani generosi che danno una mano, aiutano, perché questa cosa del gesto sospeso, del pasto sospeso, è una cosa, è bella anche per questo, pochi euro, però è anonimo, no. Intanto, no? Perché tu non sai chi lo dà e non sai, esatto, chi lo riceve, e per, esatto, questo forse è anche più bello, ci vuole fiducia. È come donare il sangue, alla fine quello che poi cercherò di fare anche il 12 maggio a Dubai, che è durante il periodo del Ramadan, che è appunto il periodo del mese del Ghiri per antonomasia, è con Piadera, una piccola realtà italiana che fa piadine non con lo strutto ma con le olie extravergenative, proviamo a inoculare anche lì il pasto sospeso, perché ci sono un sacco di labor camp con schiavi, fra virgolette, a cui viene detratto o il passaporto, oppure dei rifugiati politici che non hanno nulla da mangiare, quindi possiamo magari sensibilizzare anche dei paesi un po' più ricchi dei nostri che magari non pongono un occhio su questo fatto. Quindi insomma, come si può, si deve cercare di fare meglio, perché un mondo migliore è meglio per tutti. Giusto, abbiamo letto di questa cosa a Dubai ed ero molto curioso perché, come hai giustamente appena sottolineato, fate una piadina senza strutto, perché appena ho letto piadina Dubai ho detto ma la piadina ha lo strutto e soprattutto la piadina senza prosciutto crudo per me è un problema e allora mi sono detto come hanno fatto? No, ma questi ragazzi sono lì, mi hanno chiesto di poter passare per allargare appunto il messaggio di solidarietà e ho detto vengo solo se riusciamo a incastrarci con questa storia del pasto sospeso, così che magari a macchia d'olio si possa diffondere. Poi che, a macchia d'olio dici giusto e non a macchia di strutto. No, infatti. Non no, a caso. Non a caso, ma non nego che sono cresciuto con quella con base strutta, quindi per me è quella, ma altre versioni per cercare comunque di passare dei messaggi per me sono importanti, basta che non siano segnati. Giusto. Io però giusto. C'ho una curiosità, chef Rubio, perché mi immagino adesso gli chef sono da tutte le parti, Masterchef, no? Duvalle. Ma tu quando vedi, lo vedi Masterchef? Perché uno come te che ama il cibo di strada, mangia con le mani, fa di tutto, eccetera, vedere questi chef fighetti, dai, che fanno questi piatti super elaborati, tu che fai? Ti viene un conato? Ti giri dall'altra parte? No, un sacco di amici e colleghi che lavorano nell'alta cucina e vengo da lì, io semplicemente sto passando un messaggio. Se mi dovessi cimentare anche a fare quelle cose, magari nella prossima vita sarei in grado di farle tranquillamente, ma non è quella che mi interessa. Massimo rispetto per tutti i colleghi, sicuramente non guardo la televisione, non guardo quindi nemmeno Masterchef, ma non per partito preso, solo perché preferisco fare piuttosto che guardare. Allora, intanto però ti annuncio, momento proloquo, anche per te oggi chiediamo agli ascoltatori in 20 secondi di fare uno spot di una località che gli sta a cuore, la loro città, il loro paese, magari per invitare a Pasqua, a Pasquetta, a scoprire un luogo inedito dell'Italia. Tu sei di Frascati, vuoi prepararti? Allora, non venire a Frascati perché piove come credo in tutta l'Italia. Ah, adesso sta piovendo? No, io sono adesso sono in Trentino, ma fra poco sarò in Lazio. Sì, e pioverà. Ti ricordi non c'è stata una Pasqua, una Pasquetta con un raggio di sole, quindi almeno dalle parti mie non venite perché... Vabbè, se avete bisogno di schiarirvi le stiamo sospettando che in realtà non hai voglia di avere gente intorno, quindi dici non venite a Frascati. Esatto. Allora però almeno con una ricetta unta e bisunta, mi stavo intrecciando, ce la devi dare questa per Pasqua. La cosa più semplice da fare a Pasqua è fare con gli amici, prendere dal macellaio un po' di carne, dal mercato della verdure qualche verdura, accendere un fuoco, mettersi intorno e magari a fare rotazione fra vegetariani, vegani tutti insieme una mucchia, giusto perché qua non si capisce più nulla. Una grigliata, quindi stai dicendo una grigliata con le verdure, tipologie di alimenti che facciano stare contenti con due file, una fila per i vegetariani e l'altra invece per i carnivori. Mischiamo le file esatto, e poi una volta arrivati alla griglia ognuno sceglie se vuole verdura o carne. Ora faccio la domanda stupida del secolo: ma qual è il segreto di una buona grigliata? Vabbè, ciao, me ne vado perché questa è proprio stupida. C'è il segreto? No, non ci sono segreti, c'è solo conoscenza di come si addomestica il fuoco e sicuramente con della birra e della musica è molto più divertente. Il segreto è essere disposti a bruciarsi i peli delle mani, perché quello succede sempre quando fai la grigliata se non sei molto esperto. Ti lasciamo però chiedendoti anche un'altra cosa, perché in questo periodo ci sono tanti modi per donare il 5 per 1000 della propria dichiarazione dei redditi, sono tante associazioni benemerite, tu lo fai per Amnesty International, sì. Perché? Perché sono un individuo e come tale mi interessa contribuire completamente a diffondere la cultura dei diritti umani, quindi conoscere da vicino insomma le realtà che vengono spesso violate e così da con la mia fama, tra virgolette, o notorietà, divulgare questo messaggio e dare visibilità a quelle realtà e persone che purtroppo vengono schiacciate dalla prepotenza e dall'ignoranza. Grazie Rubio. Grazie mille, complimenti per questa cosa di Amnesty International. Abbiamo fatto anche una campagna insieme per ricordare 5 casi e quindi e poi ci si appoggio, ti sono molto vicino in questo. E poi ci si dimentica sempre di donare il 5 per 1000, almeno io me lo dimentico, invece è una cosa, una piccola cosa che si può fare. Assolutamente. Che bisogna ricordarsi di scegliere un'associazione, ci sono degli elenchi in giro, insomma poi ognuno ha a cuore magari un'idea, un progetto, un impegno e quello è il momento per dare un piccolo contributo contributo che non costa nulla. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo tra poco, soprattutto per i vostri momenti proloco, le vostre città, i vostri luoghi che volete promuovere in questo momento, itinerari alternativi per Pasqua e Pasquetta. Siamo qua. Nove e 18 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, ancora vi rinnovo l'appello all'800 24 00 24, siamo qua. Adesso è il momento di darvi 5 buone, piccole magari notizie, piccole notizie che possano però aiutarci a ritrovare il sorriso di fronte ai grandi problemi che ci sono in giro per il mondo. L'abbiamo chiamato Si può Five questo momento qua. Sempre per usare l'inglese, visto che ti professi contrario all'uso dell'inglese, ma poi è importante. Possibile non andare contro l'inglese. Vai. Allora, quinto posto, come buona notizia, piccola buona notizia della settimana, sentite qua, a Napoli arrivano i cestini con i sacchetti per raccogliere le deiezioni canine, cioè ci sono dei distributori di sacchetti che sono stati installati al Parco Mascagna in via Iannelli per dare la possibilità a chi ha il cane di trovare il sacchettino per poter raccogliere le deiezioni dei cani, anche a chi non si porta il sacchettino da casa, un piccolo gesto di civiltà che c'è anche in altre città, ma adesso c'è anche a Napoli, bravi. Quarto posto invece andiamo a Rimini, bici regalate in occasione della prima festa della bicicletta, questa iniziativa riciclo, una bici per ogni bambino, nessun bambino senza bicicletta, ovvero a Rimini è stato chiesto ai bambini più fortunati e anche ai loro genitori ovviamente che hanno biciclette inutilizzate a tirarle fuori dai ripostigli e a mettere a disposizione di altri bambini che non se le possono permettere, perché è stata fatta un'inchiesta e il 62% degli alunni vorrebbe arrivare a scuola in un mezzo diverso dall'automobile, e quindi per fargli imparare a usare la bicicletta nell'età giusta in cui si impara ad andare in bicicletta, cioè da bambini, questa bellissima iniziativa a Rimini. Quasi una bicicletta sospesa, potremmo dire. Terzo posto, siamo sul podio. Più una bicicletta recuperata. Terzo posto, siamo sul podio. Alluvione nel Sannio, ricorderete, nel 2005 a Benevento, lo storico pastificio Rummo è salvo. Vi ricordate tutta quella campagna virale per aiutare il pastificio Rummo a risollevarsi dopo l'alluvione? Ebbene, c'è stato un concordato del Tribunale di Benevento che, con parere favorevole, ha aiutato il pastificio Rummo in questa procedura per riavviare le sue attività e fare fronte dunque ai debiti. E viva il pastificio Rummo. Secondo posto. Secondo posto, Roma, ATAC, quindi mezzi pubblici, un accordo antiportoghesi, 1400 dipendenti diventeranno controllori una volta a settimana, cioè ci sarà la possibilità di usarli una volta alla settimana come controllori, quindi i dipendenti dell'ATAC si sposteranno dagli uffici e andranno sui bus e in metro a fare appunto i controllori. È un progetto che in realtà era già partito da Ignazio Marino e che adesso finalmente arriva a compimento e ne siamo contenti. Saranno meno contenti i portoghesi, ma peggio per loro, portoghesi che poi portoghesi poverini non sono, ma insomma che sono quelli che non pagano il biglietto. Bravo. Per intenderci, insomma. Primo posto, sono più degli stronzetti. Riguarda Milano, Roma secondo posto, Milano al primo posto, PIL da record e polo della ricerca, così rinasce Milano. Allora, il PIL di Milano è il doppio della media nazionale, dati di questa settimana, ma soprattutto Milano punta ad ospitare l'agenzia del farmaco, si spera in un secondo effetto Expo, quindi Milano che guida dall'Italia, speriamo. Basta, finisco. Applausi, mi aspettavo. Facevo la faccia perché questa è una buona notizia, però sembra una buona notizia per Milano, quindi uno dice, sì, vabbè, ma io non sono di Milano, mi stai anche dicendo che è il doppio del PIL nostro, insomma, buona notizia. Vabbè, sono piccole buone notizie, cosa possiamo fare contro le mire guerrafondaie di Trump? Nulla, possiamo solo raccontare piccole molto buone giusto. Notizie possiamo, e possiamo portare il sorriso. Esatto. 800 24 00 24, tra poco vi aspettiamo con i vostri momenti proloco. Cresceva un filo d'erba nel deserto, la sabbia gli faceva compagnia e la paura dello spazio aperto, del vento che se lo portasse via. Era aggrappato a qualche cosa là sotto, qualcosa di misterioso che lo legava al centro della terra e lo innalzava dritto verso il cielo. Laggiù sembrava la fine del mondo, l'inizio della libertà, e salutava le carovane che attraversavano l'Africa. E poi di notte ballava una musica che proveniva da dove chissà, sotto una pioggia di stelle piangeva per la felicità. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24, e questa che abbiamo appena ascoltato è Dove tutto comincerà di Sulutumana. È il nostro Si può fare in musica, una canzone che ci è stata suggerita dai coniugi Soma su Facebook. Noi ci come sapete siamo sempre in cerca di Si può fare in musica, quindi se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori, o siete i coniugi Soma appunto, e vi imbattete in una canzone che secondo voi bene racchiude il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, di suggerircela, di modo che noi possiamo farla sentire e metterla nella nostra playlist sui nostri social. Potete inviarci i vostri Si può fare in musica alla mail sipuofare@radio24.it, oppure sul profilo Facebook Si può fare trattino Radio 24, sul profilo Twitter @sipuofare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Siamo dotatissimi di profili di social, ci manca solo Instagram. Io ho anche Facebook, ho anche Instagram e ho anche Snapchat, comunque sempre paura. Come Carlo Snapchat Gabardini mi fa paura, te lo dico sempre, mi fa paura. È un po' che non lo uso, anche perché allora, adesso su Instagram un po' di cose che aveva solo Snapchat gliele hanno un po' prese, un po' imitate, un po' paura rubate. Io ho paura di Snapchat, cioè questo nome Snapchat. Allora, messaggi al 349-238-6666. Alla casetta rossa dicono si mangia benissimo, e questa è una buona notizia, buona notizia, due volte, al sesto posto. Pasto sospeso alla casetta rossa, dove si mangia pure bene. Sono vegetariana, dice un'ascoltatrice, ma non mangio solo ravanelli, giusto? Beh, certo, mica solo ravanelli, i vegetariani mangiano cose buonissime. Poi un altro ascoltatore che dice tutto bello quello che dice il pastore sardo, ma non quando dice che con la musica non si vive, pensa che di offendere qualcuno dicendo questa frase, perché evidentemente questo ascoltatore forse vive della sua musica, beato te. Ma lui, Gigi Sanna parlava per sé, diceva in Sardegna, onestamente mi sembra difficile potersi offendere. Lui dice purtroppo con la musica sì. In Sardegna non si riesce a vivere, quindi non è che per lui, insomma, lui vorrebbe, esatto, magari anche, no? Però e comunque dice anche questo messaggio, dice che è un dilettante, comunque direi che come dilettante se la cava molto bene, visto che fa concerti insieme a Vecchioni. Carlo dalla provincia di Verona, benvenuto. Grazie, tanti auguri di buona Pasqua a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie anche altrettanto. Ecco, io abito in un bel paesino che si chiama Castelnuovo del Garda. Momento proloco? Ma anche un momento notizia importante, sì. Diversamente dalle tutte quelle guerrafondaie di cui voi facevate accenno prima, ma veramente carina, perché ci stanno costruendo un parco. A Castelnuovo del Garda? Sì, ma un parco di alberi, veri. Ma ce lo stanno costruendo, sarà pronto per Pasquetta? No. No, ancora no, perché purtroppo con la burocrazia non del comune ma della regione qualche ritardo c'è stato, ma noi siamo ottimisti e siamo contenti perché veramente viene ad arricchire di un polmone verde ed bello. È una cosa anche un po' in controtendenza che esiste sul lago e si fa spazio al cemento con il verde. Ma assolutamente. Ci sembra un'ottima notizia. Siamo felicissimi. E penso che ne parleremo a questo punto, quando iniziamo a vedere degli alberi. In una delle prossime puntate. Intanto per questa Pasqua forse è troppo presto, per la prossima Castelnuovo Garda, un motivo in più per andarla a visitare. Oppure, parco. Oppure andateci e portate delle piante, così iniziamo da questa Pasqua a ripopolare. Oppure andate a controllare che inizino i lavori per la costruzione di questo parco. Grazie Carlo, resta se vuoi in linea con noi, perché puoi partecipare anche tu a Crowd Me Up, ti chiediamo di fare da giurato per i progetti di crowdfunding che vi raccontiamo tra pochissimo. Donato intanto dalla provincia di Reggio Emilia, ciao Donato. Donato, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego, su cosa volevi intervenire Donato? Volevo intervenire per segnalare una singolare manifestazione che in questi giorni, oggi, domani è il giorno di Pasquetta, sì. Si tiene a Guastalla, si chiama Georgica, è una manifestazione enogastronomica con esposizioni di piante, spettacoli per bambini, vedere la possibilità di ravvicinata, di vedere dei rapaci notturni. Aspetta un attimo, Donato, perché hai detto per bambini. Sì. In che senso di poter vedere dei rapaci? Perché c'è una stanno in gabbia, no? Che ne ha preso ha preso cura e li espone per poter avvicinare, poter apprezzare. Ma cosa sono, delle aquile, dei falchi, cosa sono? Sono dei falchi, ci sono

però andrei sul social wood, che mi sembra un'attività che possa poi anche proseguire nel tempo per questi carcerati che impareranno un mestiere e avranno magari un futuro in cui portarlo avanti, oltre a fare adesso qualcosa di buono per questa biblioteca. Giusto. Ottimo, ottimo. Bene. E quindi 2-1, però comunque ricordiamo che non è che c'è un progetto che vince, nel senso che li ritrovate entrambi sulla piattaforma di Apple e potete decidere a chi dare i vostri soldi. Quindi grazie ad Emanuele Russo, di C'era una volta in cascina, e anche ad Andrea Ferrari di Social Wood. Grazie per essere stati con noi, di averci portato le vostre idee. Trovate tutto invece voi ascoltatori sulla piattaforma di Apple, ma anche sul sito di Radio 24, la pagina di Si può fare e Cloud Me Up. Benissimo. Con questo appuntamento ci ritroveremo sabato prossimo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it, col TH. Vi presenta... Allora, 9:43 minuti, c'è un messaggio al 349-238-6666 di Riccardo che scrive a proposito della nostra classifica Sipo 5, non ricordo in che posizione fosse, i controllori dell'ATAC, cioè gli amministrativi dell'ATAC a Roma, che tornano a fare i controllori, visto, dice Riccardo, che aumenteranno i controlli sui bus di Roma, credo che sarebbe una buona idea, data la frequente difficoltà di trovare rivendite, permettere a chi è senza biglietto di comprarlo a prezzo maggiorato dal controllore. Addirittura si mette anche il prezzo maggiorato. Beh, secondo me sarebbe giusto, anche non a prezzo non maggiorato, magari, no? Perché no? Di venderli sui mezzi pubblici. In qualche città si fa questa, si faceva in passato, adesso in effetti non. Sì, sì, in alcune si fa, e effettivamente si fa a prezzo maggiorato, sì, perché c'è un costo. Sì, c'è un piccolo costo. Però almeno togli un alibi, togli scuse. Togliamo scuse ai portoghesi. 800 24 00 24. Invece, ascoltatori, oggi l'ingaggio è con i vostri racconti sui luoghi da scoprire, luoghi inediti per questi giorni di Pasqua e Pasquetta, anche per chi non si può permettere grandissimi viaggi in giro per il mondo. È facile dire vado a Capri, vado anche Chef Rubio, prima era in Trentino, posti bellissimi, vai a scoprire un posto bello in provincia a Vico Pisano. Ecco, questa è la scommessa. Diego da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Vai. Ecco, sì, va a scoprire anche i castelli della pianura bergamasca. Noi siamo una proloco, una piccola proloco di Martinengo, un borgo medievale della pianura, e soprattutto siamo gli organizzatori di un circuito di 14 località tra borghi medievali, castelli e palazzi, che di solito sono solitamente fuori dal circuito del turismo. Mm-hmm. Però in questi anni abbiamo sperimentato che l'unione fa la forza, abbiamo messo in rete le nostre queste piccole località e stiamo cercando di farle diventare una meta attrattiva, sì, per il pubblico. Però Diego, qual è il piatto forte, il plus, come dicono quelli che parlano bene, di Martinengo? Martinengo, scusami. Martinengo è un borgo medievale e dove si può, ad esempio questo lunedì di Pasquetta sarà aperto anche il parco della Villa Allegreni, un grande parco di una villa privata, e contiene al suo interno ancora una struttura fortificata tipica del Medioevo del 400. Poi insieme a Martinengo ci sono castelli come quello di Malpaga, castelli di Pagazzano, di Urniano, dove ci sono iniziative, castelli, mostre, castelli, per portare magari i bambini a vedere come si vive nel Medioevo. Va bene, Diego, grazie. Grazie mille. Hai avuto anche tu il tuo momento proloco. Adesso fra un po' magari sentiremo qualche altro ascoltatore, insomma elaboreremo la risposta che ci è piaciuta di più, i 30 secondi che ci sono piaciuti di più, e naturalmente il vincitore otterrà un libro dalla nostra biblioteca, magari a tema. A Vabbè, è sempre un piacere ascoltare questa celebre pezzo di Simon & Garfunkel, ma dicono gli ascoltatori, chissà perché sono andati a pescare questa musica oggi, questo pezzo antico, perché insomma, ma è un pezzo vintage, cosa sarà, un pezzo degli anni 70? Carlo rimane che di troppo, ma soprattutto è la colonna sonora del film Il Laureato. Il Laureato. Noi ce l'abbiamo qua con noi, uno sportivo laureato, un po' come Giorgio Chiellini, difensore della Juve e della Nazionale. Settimana prossima lui è giocatore di Modena Volley e della Nazionale. Salvatore Rossini, laureato anche lui in ingegneria gestionale. Salvatore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Detto Totò. Te lo chiedo perché io e Carlo non siamo due grandissimi, te lo dico subito, frequentatori sport in TV, almeno io non tantissimo, quindi non sono proprio... Però la pallavolo, siamo diventati tutti pallavolisti, sì. Da quando c'è la nazionale e Salvatore gioca pure in nazionale. Totò. Complimenti intanto per la tua carriera sportiva, ma a questo punto, insomma, noi volevamo sottolinearla questa cosa qua, perché per uno sportivo di fama, per un calciatore soprattutto, che insomma, gli stipendi sono probabilmente un po' più alti dei vostri, no? Certo. Magari, però insomma, uno sportivo di alto livello potrebbe anche dire, ma chi se ne frega, anzi no, il messaggio che spesso passa è quello di non fare la scuola, lasciar perdere, e invece anche no. Perché come dice il ministro Poletti, basta andare a giocare a calcetto, quindi basta anche andare a giocare a pallavolo, noi pensavamo. Beh, la mia era una passione insomma che andava di pari passo con quella sportiva da ragazzo. Poi logicamente ho dovuto fare delle scelte, ho dovuto prendermi delle priorità, che la mia vita pallavolistica è diventata la mia priorità. Ha preso il sopravvento, ma non del tutto. Sì, non ho accantonato l'altra strada, che ti ripeto, era per me comunque una grande passione, quindi finalmente un piccolo traguardo l'abbiamo raggiunto. La grande passione era l'ingegneria gestionale? No, erano i numeri di per sé, perché comunque ho fatto lo scientifico, mio padre anche era ingegnere, quindi era una cosa che io vedevo di buon occhio questa, e quindi certo, ho deciso di affrontare comunque anche questa strada, anche se sapevo che il cammino sarebbe stato tortuoso. Analisi dell'efficienza biomeccanica di uno sportivo professionista. Sì. Ti dice qualcosa? mi dice qualcosa di bello, perché per me l'altro giorno è stata una giornata splendida, lo è stata anche per i miei genitori. Devo ringraziare l'università, perché se mi ha dato, insomma, se io l'ho potuto vivere questa giornata è stata grazie anche all'università, perché dal punto di vista logistico e anche... Cioè sono venuti a farti laureare intorno. In trasferta? Sono venuti quasi, perché tra una partita di Champions League e una semifinale scudetto c'è stata la laurea, quindi è stata porca miseria, una cosa così, però... Ricordiamo solo che questo era il titolo della tesi di Totò, sì, analisi dell'efficienza biomeccanica di uno sportivo professionista. Che cosa si parla? Allora, sono state fatte lo scorso anno delle valutazioni praticamente su me stesso, e quindi facevo anche da soggetto della tesi. Ma così è facile, però scusate, uno si fa la tesi su se stesso, è troppo facile così, no? Vabbè, è un'autobiografia, ci sta. No, però sono state fatte delle rilevazioni con diverse metodologie di lavoro, sì. Alcune rilevante la parte cinematica, quindi tramite il motion capture, una tecnologia che si chiama motion capture, è stato utilizzato un pavimento di forza situato presso il Tecnopolo di Reggio Emilia, in grado di descrivere le interazioni del corpo con il terreno, e il tutto è stato anche fatto tramite un sensore che indossavo anche durante gli allenamenti, in grado di dare parametri biomeccanici e fisiologici. Abbiamo incrociato tutti i dati, abbiamo fatto una mappatura di quella che poteva essere insomma l'efficienza ideale di uno sportivo. E com'è andata? Sei efficiente? Su alcune cose più, su alcune cose meno, come vedete. Ti è stato utile quindi anche per la tua carriera di sportivo? Beh sì, no, infatti il progetto era quello, insomma, dare un indirizzo, e non mi nascondo che adesso alcuni esercizi li faccio in maniera differente rispetto a prima, perché sono state messe in luce delle asimmetrie, per esempio, ma infatti era proprio questo che volevo sottolineare, perché uno magari pensa di dover scindere in due la propria vita, quindi da un lato allora lo sport, dall'altro lo studio. Invece mi sembra molto bello che hai fatto sintesi, tu in realtà non è che fai una roba che è completamente dell'altro, studi ingegneria gestionale, però fai una tesi sull'efficienza biomeccanica nello specifico del tuo corpo, e però da questo poi evinci anche dei dati sull'ingegneria gestionale, quindi volevamo farti complimenti. Grazie, grazie mille. Io che pensavo che l'ingegneria gestionale fosse una cosa molto, molto più arida, molto più, non lo so, molto più gestionale. E invece è molto interessante. Complimenti. Senti, ma trasversale, dai. Sì, ma nel volley ci sono, scusa l'ignoranza, i ruoli, perché abbiamo parlato di Chiellini. Chiellini è un difensore, sì. Tu sei libero? Il tuo ruolo è libero? Sono un difensore anch'io. Sei un difensore anche tu. Sì. No, io sono quello, diciamo, con la maglietta diversa, quindi... E perché la maglietta diversa? Questa cosa non l'ho mai capita. Allora, guarda, perché in pratica il mio ruolo è un po', diciamo, particolare, perché non posso né schiacciare né battere. E quindi quando, durante la rotazione dei giocatori, io devo andare in prima linea, esco e rientro al centrale, che è l'altro ruolo con cui... Mm-hmm. Mi sostituisco per poi rientrare subito dopo, quindi in pratica io sono sempre in seconda linea. E per facilitare all'arbitro queste rotazioni, insomma, si danno due magliette. Ti metti un'altra maglia, sì. Di modo che così uno. Esatto. Sbaglia, adesso che l'hai spiegato, ho capito perché c'è questo giro di entrare e uscire con la maglia bianca. Sei un po' diverso dagli altri, particolare sei l'unico laureato. E non puoi schiacciare, e non puoi. È per questo studi, che hai un sacco di tempo. Esatto, almeno studi. Avete ragione. Complimenti. Salvatore Rossini, da grande cosa ti vedi a fare? Più lo sportivo o più l'ingegnere? No, guarda, io spero più l'ingegnere, perché una parte della mia vita l'ho dedicata alla pallavolo e sono contentissimo, lo rifarei tutti i giorni. Dice, mo basta, mo facciamo cose un po' più serie. No, però dopo mi piacerebbe anche davvero misurarmi con quest'altro aspetto. Non l'avrei mai pensato, pensavo che fosse anche un buon viatico per poi fare l'allenatore, invece no. No, guarda, mi piacerebbe molto allenare dei bambini, no? Perché alla fine è una cosa che mi piace, però lo sport ad alto livello poi richiede delle tempistiche, dei modi, insomma, differenti, e quindi mi piacerebbe molto, insomma, potermi, ti ripeto, misurare in ambiente lavorativo sotto altri ambiti. Bravo, Totò Rossini, diverso e particolare anche in questo. Complimenti. Grazie mille. Celebrare anche questo sportivo, questo campione vero e proprio della nazionale di volley italiana, che ha deciso e si è laureata, ha portato avanti anche il suo percorso di studi. Quindi, cari ragazzi, continuate a studiare, anche se apparentemente sembra che possa servire magari a poco, magari a niente, quando uno è un po' più depresso. E invece no, vedete? Serve, perché quantomeno uno fa un percorso, eh? Che mi dite? C'è un minuto? Sì, abbiamo Claudio da Milano in questo minuto. Pronto? Vai Claudio. Pronto? Tutto per te. Momento proloco? Volevo promuovere. Vai. Il paesino dove abito, vicino a Milano. Che paese è? Conosciutissimo, penso, anche da voi. Pantigliate. Come Pantigliate. No? Ci sono stato decine e decine di volte. Grande Pantigliate. No, dici perché, 20 secondi. Io non lo conosco Pantigliate. Nemmeno io, 20 secondi, perché Pantigliate? È una zona centrale, vivevo a Milano, sono venuto qui per esigenze familiari, si sta da Dio, Pasqua, Pasquetta. Vabbè, basta, si sta da Dio e questo è il tuo momento proloquo, si sta da Dio. Non abbiamo tempo per approfondire. È giusto così. Allora, invece vince Sara dalla provincia di Pavia, dove a Sant'Alessio con Vialone si possono vedere i nidi di cicogne. E questo l'ascoltatrice che vince oggi il nostro libro. Brava Sara, complimenti. Complimenti. Buone gite di Pasqua e di Pasquetta a tutti, anche in posti da scoprire, vicino casa, non bisogna andare lontani, non necessariamente. Grazie a tutti, Andrea Piana, Claudio Schiattone, Carmelo Ricella, ci risentiamo sabato prossimo, domani siamo registrati. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini, buona Pasqua e buona Pasquetta. Ciao.